www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi. Mentre nella fabbrica di polli è in corso una guerra civile tra polli marroni e polli arancioni, Cappa e Drago pensano a difendersi. Bravo! Hai appena comprato un lanciafiamme usato fabbricato in Bulgaria. Molto bravo! La banca non ti lascia mai solo. Già, le donne non ti scrivono. Pensa per te. Gli amici nemmeno. Amici? Quali amici? Almeno la banca, no? Spero solo di non aver sprecato i soldi. Vabbè, forse, dai, un lanciafiamme, capo. No. Un lanciafiamme usato è una specie di investimento, eh. Come no? È un bene rifugio. Come il mattone. Come il mattone. Quando è richiesto un fuoco di saturazione e non importa invece che il tiro sia selettivo, il lanciafiamme diventa l'arma perfetta. Perfetta. Il lanciafiamme è un'arma portatile o fissa che proietta in avanti napalm, un liquido ad alta viscosità che brucia anche sott'acqua e rimane incollato al bersaglio. Bersaglio. Ovviamente non è possibile impiegare il lanciafiamme in interni, a meno di non trovarsi fuori dall'edificio. Che non è interni, perché è fuori. Avevo detto fuori dall'edificio. Avevi detto anche interni. È scoppiata la pace. La pace? Ah, meno male. Cos'è successo? Hanno capito che arancione e marrone sono lo stesso colore, si sono messi d'accordo. No, è che un po' alla volta si sono fatti tingere ancora di bianco e alla fine hanno deciso di smetterla. Ma come? Ma no, ma io ho appena comprato un lanciafiamme. Vabbè, mica devi buttarlo via, no? Lo puoi rivendere. Ma no, ma si è deprezzato. Adesso ormai chi lo vuole? Puoi metterlo su eBay oppure cosa vuoi fare? Fomentare di nuovo la guerra così usi il lanciafiamme che hai appena comprato? Tipo la CIA? Non sarebbe male. Sì, ma ormai sono rimasti pochi marroni, eh? E qualche arancione irriducibile, sì, i soliti esaltati. E mica puoi mettere uno contro l'altro come nei tempi della guerra fredda, Secondo me si potrebbero fare degli attentati e poi farli rivendicare da uno dei due gruppi, così si torna un bel tutti contro tutti, capito? Certo, sì. E il tutti contro tutti è l'ambiente ideale per usare il lanciafiamme. Guarda che bella bestia! Dai! Un bel... E vai ancora con un... Eh? Non sarebbe male, però che tipo di attentati si possono fare? Non so, le solite cose. Bombe, rapimenti, stragi random. Rapimenti. Allora, rapire l'amministratore legato, che è l'unico che si può rapire qua dentro, non conviene mica, eh? Perché? No, perché dopo tutti fanno festa. Quello è uno di quei casi in cui ti pagano per tenertelo. Ho capito. Vabbè, allora le stragi sono quelle che funzionano meglio. Io, ad esempio, personalmente ho sempre ammirato la precisione scientifica delle stragi di Al-Qaeda. Drago, stai attento a quello che dici. Solo che Al-Qaeda usa i kamikaze, no? È quella l'arma segreta. E noi i kamikaze non li abbiamo. A meno che uno di noi non si voglia sacrificare. Non so, Kappa, tu pure il pollo. Però, va bene. Una bombetta nella sede dei marroni. Una bombettina. E un'altra bombetta nella sede degli arancioni. E alla fine il gioco è fatto. Sì, dai, così potrò usare il mio lanciafiamme. Io mangio filo spinato e cacco fulmini. Io però quando sono svizzero dovete lasciarmi fare il svizzero, perché altrimenti, ecco, che voi siete italiani. Voi deve sfogarsi e parlare la sua vera lingua. Fare cose senza sapere, sì, ritardare. Così, esatto. Dire cosa per un'altra. Fare queste confusioni. Pressapochismo. Molto ritardo. Certo. Però disponibili, però molto disponibili, non come voi. No? Disponibili a portare soldi di noi. Anche disponibili a starvi dietro. Voi state attenti perché poi noi diventiamo disponibili con Guardia di Finanza e quindi e dopo siamo disponibili a fare un accordo con petroliere di Arabia, conquistare il mondo, diventare finalmente patroni, anzi solamente io, patrone di mondo. La fabbrica di polli. Ma Tarek, e tu sei rimasto marrone. Ma perché non ti sei rifatto bianco? Marrone. Beh, ragazzi, miei. Capello riccio, marrone. Sì, capelli ricci. Tarek, tu sei ricoperto di piume, non puoi farti la permanente. Che ragioni sono, capelli ricci? Brown Power, episcopale. Episcopale, Tarek, vuoi entrare nel paradiso delle vergini? Eh? Sì, Tarek, il paradiso delle vergini. Quello che attende chi si sacrifica in nome dell'acquisto di un lanciafiamme. Non l'hai mai sentito dire? Episcopale, ecco, vedi. Allora, la vedi questa bomba a orologeria? Sì. Ecco, bravo Tarek. Adesso prendila e portala laggiù, vedi laggiù? Bravo. Così andrai dritto filato nel paradiso delle vergini. Vai Tarek, corri. Vai Tarek, corri. Dai. Che botta, povero Tarek. Sì, però ora si tratta di trovare un arancione che faccia lo stesso. E poi la guerra civile ricomincerà. Sì, arancione, quindi... arancione. Vediamo un po'. Io ho fame. Joao, ma tu sei arancione. Per forza, lui è abituato a digiunare, quindi ha scelto il poliare Krishna, no? Incredible fame. Joao, allora, se tu porti questa bomba a orologeria, vedi? Sì. Ecco, la porti alla sede dei marroni, io ti faccio mangiare il mangiabile. Mangiamo il mangiabile! Mangiamo il mangiabile! Vegetariano, però. Sì, dai, vegetariano. Dai, Joao, forza, vai. Incredible bomba. Ecco, bravo. Vai, Joao, vai. Vai, continua, ecco, vai un po' più a destra, vai, ecco, lì. Oh, bene. Che povero Joao. Sì. Vabbè, comunque si è sacrificato per una nobile causa, quindi. Ecco, finalmente. Ecco, la guerra civile di nuovo tra noi. Drago, sì, però stai giù. Sì. E lasciami usare il mio lanciafiamme. Sì, ma non puntarlo così. No, L'odore del napalm la mattina mi fa impazzire. Ma è mezzanotte. Vabbè, è una citazione, Drago, dai. Ho Chi Minh rotto in culo. Che cosa succederà adesso? Kappa e Drago riemergeranno interi dalla guerra civile che è appena riscoppiata? E Tarek e Joao sono davvero entrati a far parte degli eletti al paradiso delle vergini? Un lungo weekend di primavera vi attende, ma lunedì tutti puntuali a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi vietnamitici allestimenti de... La fabbrica di polli. Non chiude mai la fa-